che con Pippo non c'è assolutamente problema. C'è stato uno scambio di un minuto neanche di opinioni. Tutti noi vogliamo il bene del Milan, ci mancherebbe che fosse successa una cosa simile. Riusciamo a vincere un trofeo che ci mancava da tanto tempo. Secondo me la nostra società meritava un riconoscimento. Adesso è il momento anche di metterci la faccia e di rimanere uniti in quello su cui stiamo lavorando. Non dobbiamo mollare un centimetro. Tutti convocati di Carlo Genta. E rieccoci tornati al processo di Biscardi. Avete deciso qualcosa? No. Ci dica giusto se è andata come è andata. Non si può dire niente? Niente? Dice qualcosa lei o la società dopo? Massimo, prima non dopo, per dieci, dai. No, non dire assolutamente niente. Ma com'è andata? Quali erano i toni? Il caffè era buono. Ragazzole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci abbuffano i caffè. Ragazzole, le caffè. Abbiamo bevuto un bel caffè, con questo chiudo. Era l'ultimo. Ragazzi, è lunga, se mi volete portare a casa, ascoltato fino a casa, oh! Fate come vi pare, eh! Non è... Allora, ragazzi, abbiamo preso un buon caffè, non è successo assolutamente niente. Un'ora e mezza per un caffè, caffè lungo, eh! Yeah. Abbiamo gustato per bene. Ragazzole, le caffè. Dunque, questo Allegri stamattina, buongiorno a tutti. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Un caffè in via Turati per Massimiliano Allegri. Si può fare la rivoluzione a Milano con un caffè? Io credo di sì, perché gli uccellini dicono che vicino a quel caffè ci fossero dei numeri che rappresentassero la buona uscita per Massimiliano Allegri, che Berlusconi non vuole più, che Berlusconi irritato anche, dicono, ma tra poco incrocio le informazioni con chi ne sa molto più di me, le informazioni dicono che Berlusconi sia ancora più irritato dalle divagazioni di Galliani sul numero dei punti che il Milan ha fatto rispetto alla Juventus negli ultimi tre anni. Franco Ordine, inviato del giornale, ciao. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, quando verrà annunciato il divorzio tra Allegri e il Milan? Ma insomma, o stasera o domani, nella giornata di domani. Quindi appena viene definita la risoluzione consensuale del contratto. Quindi mi confermi che quel caffè sia stato mescolato con numeri intorno alla buona uscita di Allegri? No, io non penso che ci sia una buona uscita, anche perché non c'è, cioè, l'interesse di Allegri è quello di liberarsi. Lui deve andare a fare il contratto con la Roma. Per fare il contratto con la Roma lo deve liberare il Milan. Sì. Secondo me la discussione di stamattina, il lungo caffè, è stato tutto impegnato in una lunga, meticolosa e diciamo anche molto sincera ricostruzione degli ultimi avvenimenti e soprattutto, diciamo, delle motivazioni che hanno portato il Milan a fare questo tipo di scelta. Sì. Ma Allegri non avrebbe potuto consegnare il Milan nelle mani del presidente che non lo vuole più e dire: tieni, questo è il Milan, è terzo in Champions League, è quello che mi avevi chiesto, io vado alla Roma, in maniera anche abbastanza pubblica e anche abbastanza sfacciata, visto che il presidente non vuole più. Ma se è sotto contratto, come fa ad andare? Sciogliere quel contratto. Dimissioni? No, le dimissioni non lo liberano dal punto di vista contrattuale. Lui deve prima risolvere consensualmente il contratto che ha ancora per un anno fino al 30 giugno 2014 con il Milan. Dopodiché a quel punto è contrattualmente libero e può andare a discutere il contratto con la Roma. Sì. Franco, Barbara Berlusconi dice: nessuna divergenza tra mio padre e Galliani, l'ha detto stamattina, è vero? Ma guarda, io penso questo, che soltanto un folle potrebbe immaginare far fuori quello che viene considerato all'unanimità dai rivali, non dai milanisti, ma dai rivali dei del Milan il miglior dirigente in circolazione. Io penso che ci siano, magari ci possono essere dei pareri discordi su alcune soluzioni, ed è lecito che ci siano, però fino a mettere in discussione il ruolo di Galliani credo proprio no. Nonostante questo scollo che c'è stato, questo scollamento che c'è stato tra Galliani e Berlusconi su questa vicenda Allegri, perché sì, questo ma è evidente. Ecco, ma anche su questa vicenda ricordiamoci di una cosa, che il presidente Berlusconi finora è stato anche un presidente molto liberale, nel senso che lui ha scelto personalmente i primi due allenatori della sua lunghissima carriera, sì, cioè Sacchi e Capello. Gli altri allenatori li ha fatti scegliere a Galliani. Sì. Ora, Galliani non è nemmeno lui talmente folle da immaginare che il presidente Berlusconi non abbia la facoltà e la libertà di scegliersi un allenatore dopo 27 anni di successi. Per cui lui magari potrà non essere convinto, ma dal momento in cui sarà annunciato Seedorf, voi vedrete che Galliani lavorerà come un matto per far sì che tornino i conti con Seedorf allenatore. Ecco, un'ultima cosa. Il nome di Seedorf, c'è chi dice o Seedorf o uno dei tre ben noti olandesi, in quale ordine non so, Gulli, Trekker, Van Basten. Allora, se vuoi una dritta giusta, io te lo dico, te lo scandisco. Sì. S di Savona, E di Empoli, E di Empoli, D di Domodossola, O di Otranto, R di Roma, D di Domodossola. Clarence Seedorf. Clarence Seedorf, senza discussione. Detto Obama. Detto oppure come, Obama. Come l'avevo ribattezzato io una volta, Bonifacio VIII. Come sono i rapporti tra Seedorf e Galliani? Ma sono, Seedorf, non dimentichiamoci che va via perché... Mancato rinnovo, ma soprattutto perché Allegri vuole rinnovare dal punto di vista anagrafico il centrocampo. I rapporti sono, diciamo, buoni, non sono, diciamo, eccellenti, sì, ma sono buoni, sì, ma lo diventeranno perché saranno inevitabilmente costretti a lavorare uno a fianco dell'altro. Certo. Franco, ti ringrazio, ti abbraccio. Ti saluto. Grazie. Grazie a Franco Ordine, inviato del giornale. Abbiamo fatto chiarezza abbastanza, sufficiente? Non so, ditemelo voi, 800240024, senza dimenticarvi che questa è una trasmissione tutti convocati, politicamente scorretta. Strade. Tutti convocati. Ma insomma, secondo te come deve essere il nostro rapporto allora? Qualcosa di diverso, di speciale. Non il solito noioso tran tran quotidiano. Io chiedo al mio partner qualcosa di diverso. Una vita con... Desiderate qualche cosa? Un caffè, con un po' di humor. Abbiamo bevuto un bel caffè, con questo chiudo. Un'ora e mezza per un caffè, caffè lungo, eh? Abbiamo gustato per bene. Quest'anno chi ne sbaglio fanno sull'ombruoia. Un caffè con humor. Che? Con humor. C'è più e finito. Ci metto un po' c'è per niente, guai. Ma insomma, ditemi la vostra. 800240024. Non abbiate paura o vergogna o timore di essere politicamente scorretti, ma fa bene il Milan a licenziare, perché di questo si tratta, Massimiliano Allegri su ordine presidenziale oppure no? Poi saremo noi a licenziare invece ufficialmente Stramaccioni, visto che all'Inter nessuno ne ha per il momento il coraggio. Amelio, Modena, 800240024, libero spazio radiofonico. Ovviamente dite quello che volete, se si tratta di sport, di gossip o di politica, altra sede. Amelio. Volevo dire solo una cosa velocissima, sì. Mi sono un po' così divertito ad ascoltare tutti questi cambiamenti allenatori, specialmente quello del Milan, Seedorf, non Seedorf, a parte che Seedorf è una persona che io, ma così, non è che la conosco direttamente, però come si comporta, come si muove, sicuramente è una persona Di grande carisma, fantastica, sicuramente. Di grande carisma e così. Allegri non è un allenatore di calcio, Amelio. Questo che volevo dire una cosa. Sì, esatto. Provi a dire una cosa. Pensa a te. Se ci fosse qualcuno dell'Inter che dicesse: ma che Galliani e Allegri non li portiamo di qua tutti e due assieme, e così Berlusconi rimane con i suoi. E non lo so, ma questo bisogna chiedere. Ma perché lo chiedi a me? Come faccio a saperlo io? No, ma è una provocazione che è una buona idea. Che se io fossi un interista, Moratti naturalmente, ci punterei al 101%. Tanto di qua o di là dal fosso, insomma, ne abbiamo già viste tante, esiste ormai un lungo ponte, però, no? In un colpo solo portare via due così. Galliani, Allegri all'Inter, tu dici? No. Chissà cosa ne pensano altri ascoltatori. 800240024, la vedo duretta. Quantomeno per Galliani. Stefano da Forlì, buongiorno. Buongiorno, salve Tessa, ben trovato. Ben trovato a lei, dica. Due cose veloci, una sull'allenatore del Milan, ma è un po' come parlare del sesso degli angeli, ma perché non ne parliamo più e date notizie magari tra un mese quando tutto è deciso? Tra un mese comincia il ritiro? No, fra un mese anche tutti gli altri allenatori, fondamentalmente. Ma perché? Notizie solo per vendere i giornali, a noi non importa proprio nulla. Due cose veloci. No, ma guardi che, Stefano, ma guardi che non sono cose che succederanno tra un mese, sono cose che succederanno tra oggi e domani. Quindi quello che è, tanto. Non è un fatto sportivo, cioè fosse la partita, a me l'allenatore chi c'è non c'è, mi interessa relativamente, mi interessa il risultato. Sì, allora bisogna aspettare tre mesi, quando ricomincia il campionato, perché... Perché no, non sarebbe male spendere due o tre mesi di passi in classamento. No, ma noi siamo qua apposta per divertirci insieme su tutto lo sport, se vuole parlare d'altro faccia pure, però la notizia, insomma, la cronaca ci costringe a stare sulla notizia ed anche ad informare, perché è il nostro mestiere, su quello che sta succedendo, senza troppi peli sulla lingua e senza paura di essere politicamente scorretti o smentiti, come è stata quella lettera presunta di Berlusconi al processo del lunedì. Ma perché quando un palloncino vola per aria, alla fine, come quando scappa dalla mano di un bambino, bisogna crederci, e io ci credo quel palloncino. Quindi, sa, se vuole, fra tre mesi, diciamo, parliamo di formazioni, di un campionato che sta per iniziare, con il Milan che avrà un allenatore diverso e chissà quali e quanti altri giocatori. Però la notizia di oggi mi sembra questa, quindi sarebbe curioso non parlarne, no? Poi, sa, ognuno ha i suoi gusti, cioè, ci sono invece, io credo, molti cui interessa sapere cosa sta succedendo, ma senza malizia, semplicemente per informare, anche divertendoci un po'. Beniamino, Palermo, buongiorno. Buongiorno, auguri. Io dico, Allegri paga il fatto di aver distrutto il centrocampo del Milan, perché a memoria, diciamo, da milanista, il cuore della bellezza del gioco del Milan è sempre stato il centrocampo. Pirlo, Pedro, si è disintegrato. Va bene, ma però da qualche parte, mi perdoni, bisogna cominciare a cambiare. Da qualche parte bisogna cominciare a cambiare, invece. Ma non prevedeva il centrocampo, cioè Flamini, Gattuso, tutti interditori. Pirlo era in più, infatti è dovuto andare via, abbiamo fatto un regalo al Milan, alla Juve. Ma secondo me possiamo discutere il fatto che, insomma, Pirlo sia stato regalato alla concorrenza. Questo può essere discutibile, cioè è chiaro che Allegri non prevedeva Pirlo nel suo centrocampo, è chiaro che i rapporti tra i due, anche da un punto di vista tecnico, non fossero compatibili, però perché regalarlo alla Juventus facendole vincere due scudetti? Questa è la domanda che si fanno molti milanisti. A mio parere Allegri paga il fatto di non essere mai stato, non so per quali motivi, nella manica del presidente, che a questo punto ha detto: qui comando io, i soldi ce li metto io, questo allenatore non lo voglio più. Galliani lo voleva, ha provato a ricucire i rapporti, ma la toppa non è stata più evidente del buco, e quindi credo che, insomma, tra oggi e domani finirà questa questo matrimonio durato 3 anni con uno scudetto vinto, uno scudetto perduto e una stagione a mio parere eccellente dal punto di vista dell'organico. Se poi andiamo a vedere il rapporto tra prezzo e risultati, perché ricordiamo che il Milan è la squadra che ha il monte ingaggi più alto della Serie A, si parla di un meno 15 dalla Juventus e credo che a Berlusconi questo non sia sfuggito. 800240024, numero verde 349-238-6666 per i vostri messaggi. Samuele da Firenze. Salve, buongiorno a tutti e grazie. Buongiorno. Per l'opportunità. Grazie a lei. Pronto? Sto con lei. No, far finta mi fa un favore, mi abbassa un attimo la radio perché sennò sento il ritorno in cuffia, grazie. Scusi, per un attimo facciamo questo gioco, siamo due presidenti di due squadre di Serie A, io e lei. Io e lei, lei chi io fa? Io e lei, per lei chi fa? Io faccio il presidente del, non lo so, a caso, del Napoli, lei faccia quello della Fiorentina però, della Valle. Va bene, mi dice della Valle, e cosa è successo domenica a Siena? Mi dia una spiegazione lei. Gliela do subito, questa. Grazie. Questa. Arrivederci. Ma la fede non c'è, non c'è, ragazzi, credetemelo. Non è tutto scritto come diceva anche il tifoso, no? Ma tutto scritto, quello che posso rimproverare, che poi parliamoci chiaro, sabato un arbitro farà la finale italiano della Champions, sì. E non è a caso, quindi vuol dire che la nostra classe arbitrale è ancora di tutto rispetto e sono in gran parte, credo, ancora i migliori in Europa. Poi ce n'è qualcuno che magari soffre ancora magari un po' di sudditanza psicologica, e quella esiste. Allora, io ho fatto della Valle, Samuele, adesso io invece faccio l'altro presidente del Napoli. Io il calcio lo abbandono, non investo. Però mi abbassi più la radio, perché sennò io non sento il presidente del Napoli, por favor. Nel calcio italiano allora io non investo più, se queste sono le condizioni mi ritiro da presidente. La ringrazio comunque. Lei ha fatto De Laurentiis? Io ho fatto De Laurentiis, sì. Se queste sono le condizioni, io nel calcio italiano non investo più. Non è possibile, non è possibile, perché quando si parla davvero di investimenti importanti, come abbiamo fatto, come fanno tanti presidenti, insomma, delle squadre cosiddette minori, insomma, vedersi poi, vedere vanificare un'annata, insomma, importante, degli introiti importanti come è la Champions, in questa maniera, insomma, uno gli viene la voglia di non investire più nel calcio, insomma, di arrendersi. Di arrendersi, sì, sinceramente. Mi sembra che abbiamo fatto della Valle tutte e due, ma comunque. Mi sa anche a me. Grazie, Samuele. Arrivederci, grazie a voi. Cacci sordi. Tutti convocati. Ragazzi, vi ricordo che siamo politicamente scorretti e tra poco licenzieremo Stramaccioni. Non ci credete? Aspettate e vedrete. 800240024, voglio che interveniate anche voi. Allora, però, dato che questo è Tutti Convocati e riguarda tutti gli sport, io voglio parlare di tutti gli sport. Ora, sempre e comunque, non posso dimenticare quello che ho visto ieri sera. Cioè Cantù che va a vincere nel basket, gara 7 in casa di Sassari. Roma che elimina dopo una bestiale fatica Reggio Emilia. E dunque queste sono le due seconda e terza semifinalista del campionato italiano. La terza uscirà questa sera dalla bella tra Milano e Siena. Io voglio farvi sentire che cosa ha detto Andrea Trinchieri, coach di Cantù, ieri sera dopo la partita. Abbiamo condotto per lunghi tratti con ampio margine, poi come era scritto nel cielo stellato, Sassari ha qualcosa, è tornata, si è giocato i singoli possessi, però credo che in questa serie, quando vinci 3 volte di 2 e una volta di 3, forse sei la squadra del destino. E allora sentiamo se ho già cambiato idea. Ciao Andrea, ciao coach. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Non ho cambiato idea. Non hai cambiato idea. E allora che cosa dici a tutti quelli, me compreso, perché le mie responsabilità me le assumo, che dicevano che Cantù nel corso della stagione aveva l'aria di una squadra a fine corsa? L'ho detto anch'io. Guarda, l'hanno detto in tanti. Vai tranquillo. No, ma forse in qualche notte, con qualche incubo, l'ho anche pensato io. Però con grande banalità e scomodo mensiere della palisse, quindi ti dico qualcosa di molto ovvio. L'unica cosa che in questi casi puoi fare è tenere la testa bassa, pedalare, lavorare, lavorare, lavorare, essere un po' creativo, e perché credo che nei momenti difficili la creatività aiuta, e noi italiani in questo siamo unici, secondo me. E poi ci sono delle piccole cose che fanno tutta la differenza nel mondo. Quando ti capita di giocare una serie con un avversario così talentuoso, così forte, così capace, e vinci 3 partite di 2, 1 di 3, e tutte le volte questi hanno il tiro per pareggiare o vincere, e lo sbagliano, o tu li porti a sbagliare, la membrana è molto permeabile, poi un po' qualcosa ti senti addosso. Sì, sì, sì. C'è chi, come Luca, mi chiede come hai fatto come ha fatto Ranglund a rivoltare così la squadra. A proposito di creatività, avete cambiato molto nel corso della abbiamo stagione. Cambiato tantissimo, è stata una stagione, secondo me, da gironi danteschi. Abbiamo fatto fatica, abbiamo avuto problemi, ci siamo spalmati su qualche bel muro, siamo stati corrosi dalle aspettative, abbiamo bruciato la candela dai due lati, però alla fine, secondo me, non ci siamo scottati, siamo riusciti a tenere in piedi la barca senza strappare le vele, non ci siamo cappottati. Ragland è molto semplice, secondo me è molto molto più semplice di quello che uno pensa. È un giocatore con delle caratteristiche in una squadra che aveva bisogno di quelle caratteristiche. Secondo me la cosa che lui più di tutti mi ha sorpreso è che ha due palle così, al di là della sua età e una persona umilissima, sì, con grande fame, e non ha paura di niente. Mi sembra che voi non abbiate paura di niente, neanche a questo punto di pensare in grande alla faccia mia e di tutti gli altri che hanno detto quelle cose. Ma no, guarda, secondo me noi dobbiamo avere paura, perché... Di che? Ma io penso che veramente la superbia sia la cosa peggiore. Se non hai paura di fallire, poi fallirai. Sì. Io penso che una stagione come questa, oltre alle cicatrici, mi sento Capitan Harlock con tutte le cicatrici che ho, qualcosa ti lascia. Se tu riesci a sopravvivere, poi dopo sei veramente più forte. Noi dobbiamo avere paura e rispetto, ma paura nel senso positivo, una paura che alimenta qualcosa, una paura, non la paura fine a se stessa, oddio non ce la facciamo, no. Sì. Noi dobbiamo rispettare Roma come abbiamo rispettato il talento di Sassari, che è quello che ci ha permesso, essendo consci del talento di Becirovic, dei due cugini, Thornton, giocatori che hanno più talento di noi, e ci ha permesso di affrontare una gara 7 con una serenità unica. Senti, adesso ti vendo un'altra magnanimità che questa volta non è mia, se lo fosse stata te l'avrei detto perché non ho problemi. Andrea Trinchieri, dopo che ha firmato con la Grecia, non ha più le stesse motivazioni. Quanti bip avete? Tanti. Ecco, allora tanto, fate ripartire, siamo scorretti. Tutti, perché poi dopo magari non è l'ora per dire quello che penso. Perché, guarda, sono luoghi comuni, sì, che io detesto, sì, detesto. Mi viene l'eritema. Sì. Vale veramente quello che io penso, che in certi casi chi parla per primo e urla più forte gli si dà ragione. Sì. Io sono troppo innamorato del lavoro che faccio. Sì. Io e questo io lo so. Un club che è stato fatto nel 1936. Ne sono responsabile, cioè mi sento responsabile del mio lavoro, e la Grecia per me è una cosa che chiaramente ha sollazzato una parte di me. Ed è giusto così? Perché non so se mai mi capiterà di allenare Spanoulis nella mia carriera, e quindi per un allenatore ci sono vari modi per imparare, no? Anche essere buttato in un mare tempestoso e imparare a nuotare da solo, secondo me è un modo per essere migliori. Io tendo sempre a migliorarmi, faccio così tante cagate che devo migliorarmi per forza, quindi E quindi chi pensa questo pensa un emerito affrontato. Sai che parlare con te è una delle cose più divertenti che faccio, quindi ti faccio ancora una domanda e poi ti lascio andare a fare allenamento. Io no, oggi riposo, siamo tornati dal viaggio, oggi non è da te, sei ramollito. Bisogna secondo me tirare fuori il meglio dai propri giocatori. Secondo me oggi era giusto, dopo 7 partite con tanti viaggi, era giusto farli riposare. Ascolta, io penso che tu hai visto Highlander? Certo. L'hai visto. Allora, Highlander questa sera ne rimarrà soltanto una. Ne rimarrà una delle due, e quella delle due sarà la mia favorita per il titolo. Non lo so, mi sembra che la parte del tabellone di là sia molto ben attrezzata. Io andrò controcorrente, ma secondo me per le congiunture astrali, quello che sta succedendo è l'anno dei prealpini. Ah sì? A pelle. A me piace arrivare a luci spente comunque, sempre. O non sparire, perché sennò mi manchi. Va bene. Ciao. Ciao, buon lavoro. Andrea Trichieri, coach di Cantù. Dunque, Cantù Roma da una parte, X che sta per Siena o Milano. Stasera scopriamo che Highlander contro Varese, così si gioca lo scudetto del basket. Ragazzi, vi aspetto su ogni argomento. 800 24 00 24, numero verde. Marco, provincia di Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Genta si è salvato perché dopo 2 giorni di fila di Allegri, De Laurenti, mi sono salvato Genta. In che senso? Che mi ha recuperato un po' il playoff di basket italiano. Ah. Dopo che mi ha fatto il conteggio dei caffè di Allegri. Di De Laurenti, di Sedolf e Galliani, che tanto sì. Il campionato era già finito con Fiorentina-Roma. Visto che a Firenze è successo quello che è successo, cos'è successo? Era già segnato. Era già segnato. Volevo restare sul basket. No, resti dove vuole, però io insomma seguo anche la cronaca, no? Mi sembra che al di là del conteggio dei caffè, mi sembra che siano questioni discretamente interessanti, ma così, ma prenderle anche sul ridere, caro Marco dalla provincia di Milano. Certo. Ma poi questo telefono è fatto apposta per voi. E quindi non è che dovete dire ma tu parli sempre di quello, ma parlate di quello che volete. Vogliamo parlare di biglie? Parliamo di biglie, non è un problema. Dica. Marco! Dove è sparito Marco che doveva parlare di biglie, di biliardo, di quello che volete, ragazzi? Tutti convocati. Federico Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. Salve, la chiamavo per tornare per l'ennesima volta sull'episodio Fiorentina-Milan. Fiorentina-Milan, sì. Sì, nel senso la solita polemica dei rigori non dati. Però Della Valle, secondo me, visto che si è preso la briga di fare quell'intervista, poteva essere anche un po' più, diciamo, un po' più carico. Nel senso, dire noi la rimonta sul Milan l'abbiamo anche iniziata con un rigore molto generoso, loro non gli hanno dati 2 chiari, se no a quel punto probabilmente la corsa Champions era già finita. Ma Federico, non so, è inutile secondo me far la conta degli episodi. Io noto nel complesso che per la Fiorentina non è stata un'annata felicissima per quanto riguarda il vento arbitrale, e in questo non ci voglio mettere nessuna malizia e vado a memoria, quindi c'è stato un periodo in cui alla Viola non ne andava dal punto di vista della fortuna arbitrale dritta una. Loro sono stati molto bravi a glissare sull'argomento, a non tirare mai in ballo tali questioni, e io ho apprezzato molto. Ora è chiaro che arrivi alla fine, all'ultimo atto, da una parte va così, dall'altra va cosà, e secondo me Della Valle è stato bravo ad usare le parole che ha usato e l'eleganza che ha usato, sì, per tutta la stagione, perché insomma alla fine rimangono impresse nella memoria gli ultimi flash. Però per tutta la stagione, e ne abbiamo anche parlato, alla Fiorentina ne sono andate dritte poche, soprattutto in una certa parte della stagione, verso febbraio-marzo. Non è che siano stati dei film, ma questo senza sottintendere nulla e senza essere maliziosi una volta tanto. Semplicemente diversi episodi le sono andati contrari, poi ci restano impressi gli ultimi. Gli episodi che riguardano le grandi probabilmente vengono poi anche talmente rimarcati che uno se ne ricorda a distanza anche probabilmente di 15 anni, sì. Come il rigore di Ronaldo famoso del 98. Sì. Cioè, certe volte sarebbe anche meglio. Sì, ma certe volte sarebbe anche meglio scordare e guardare avanti, se no ci viene il torcicollo a tutti quanti, come ho detto un sacco di volte. Ma Marco, dov'era finito? Dov'era finito? Infatti. Ho perso la linea completamente. E com'è possibile? Per fortuna mi hanno subito ritrovato. Sulla Fiorentina siamo d'accordo, completamente d'accordo, però io volevo andare oltre e parlare un attimino di Scariolo. Sì. Perché abbiamo sentito Trinchieri, ma stasera Scariolo, con le vittorie che ha fatto nella sua carriera, sì, vorrei capire, sentendo magari anche il suo giudizio, come lo considera. Cioè, parliamo di Bremer, parliamo di Borussi, di Giacchetti, non lo so, lei cosa, come lo... Parliamo di una gara 7 che è da giocare, parliamo di una gara 7 che è da giocare, di una stagione che ha avuto diversi segni positivi, negativi, parliamo di una squadra che costa molti soldi, parliamo di una squadra che nelle dichiarazioni è destinata a vincere e non so se vincerà. Io a dispetto di quanto dice coach Trinchieri, cioè lui dice l'anno di Varese, bella storia, Varese gli ha i grandi avversari, Varese dall'altra parte del tabellone, eccetera eccetera eccetera, lui fa bene a dire così. Io credo che la favorita per lo scudetto sia quella che questa sera rimarrà in piedi, quella che questa sera, per ricordare Highlander, terrà la testa sulle spalle, ma per questioni, l'ho detto mille volte, numeriche, in un playoff così lungo, così spalmato, così adrenalinico, in cui abbiamo avuto 3 gare 7 su 4 serie, quindi si gioca così tanto, così di frequente, queste sono le due squadre, Siena e Milano, le due squadre più lunghe, anche dal punto di vista delle energie. E poi è chiaro che insomma è difficile fare i conti su Scariolo prima che sia finita la stagione di Milano. Non so quando finirà la stagione di Milano, magari tra poche ore, magari tra molti giorni, questo lo scopriremo, poi i conti li faremo ovviamente. Allora, insomma, ve l'ho detto molte volte, siamo politicamente scorretti. Dunque, allora, adesso torniamo sulla vicenda Inter, perché quella del Milan l'abbiamo inquadrata, no? Nel caffè c'era la trattativa sulla risoluzione del contratto di Allegri. Dall'altra parte del fosso, e ne abbiamo parlato anche ieri, le cose non sono ancora chiare, e allora le chiariamo noi. Prima sentendo i diretti interessati per le dichiarazioni dei giorni scorsi, Stramaccioni. Sì, guarda, se io rispondessi a questa domanda mi sostituirei a lui. Io credo che sia giusto che lui nei prossimi giorni ovviamente parli del futuro dell'Inter, e tutto passa attraverso Massimo Moratti, e quindi penso che sia giusto che le dichiarazioni pubbliche le faccia lui. Poi quello che ci siamo detti fra me e lui rimane, e ovviamente io so cosa mi ha detto, però è giusto che ne parli lui. So cosa mi ha detto, ma è giusto che ne parli lui, che ha tutto chiaro in testa. Moratti. Ma che cosa vuol dire finita la Stramaccione? Non ho ancora parlato né con lui né con nessun altro, quindi vediamo in questi giorni qui se ho tempo di mettere le cose a posto. Vediamo se ho tempo di mettere le cose a posto. E poi cos'altro dice Moratti? È lo stesso ragionamento che farei lo faccio anch'io, cioè da una parte c'è il talento di un ragazzo che certamente avrà successo nel suo mestiere, dall'altra parte c'è una situazione di questo genere, quindi sto pensando e sto ragionando qual è la scelta migliore. Senti, ma le piace Mazzarri? Ma guarda, devo lavorare all'Inter, che è una cosa diversa. Andrea Stramaccioni, buongiorno. Buongiorno, bene bene, buongiorno. Bene buongiorno, bene, mica tanto, male male. Male direi. Lei, male, si, male. Lei si farà? Diciamo che io mi farò, ovviamente speriamo che quella di quest'anno sia una stagione che insomma il presidente riconosca essere estremamente positiva per me, perché è stata comunque la prima alla guida dell'Inter. Per me è stato un anno comunque importante. Meno male che era la prima, se era la seconda, immagina un po'. Beh, cominciamo con queste battute. Diciamo che a me non piace scherzare di queste cose, perché c'è grande serietà nel mio lavoro. È stata una stagione che mi ha visto comunque protagonista, anche perché protagonista al 100%, direi, perché tanti giornali hanno parlato dell'Inter nel bene e nel male, e direi che sfido chiunque a fare meglio con i tanti infortuni e le tante assenze che abbiamo avuto. Sì, non è che siamo venuti noi a prendere a martellati i giocatori, eh? Ovviamente, però tanti infortuni come questa stagione l'Inter non li aveva da anni, da tempo, e ovviamente i risultati si sono visti sul campo. Siamo stati costretti a giocare per le ultime partite con la coppia d'attacco formata da Rocchi e dalla Badante. Sì. Sapete che Tommaso Rocchi ha circa l'età del presidente napoletano, per cui senta Andrea Stracioni, lei mi è molto simpatico ormai da tempo, però glielo devo dire, visto che non hanno il coraggio di farlo, lei è esonerato, glielo dico io, lei ne è sicuro? Sì, sono sicuro, è sollevato dall'incarico, lei non è più l'allenatore dell'Inter. Non hanno il coraggio di dirlo, insomma, in qualche modo bisogna pur farlo, ci mettiamo una mano sul cuore, lei è esonerato. Va bene, aspetti un attimo che... Allora, per cortesia, mi prepari la valigia, metti le mutande nella stuccia a sinistra, invece le canottiere nella stuccia a destra, poi facciamo le scarpe, no? Così avviso un attimo a casa, se mi dice così almeno sì, facciamo la valigia, bene. Alessandro Iraci, degli Autogol, ciao, sei grandissimo! Grazie Carlo, posso ritornare in me? Puoi ritornare in te, ricomponiti. Grazie. Senti, comunque Stramaccione è esonerato uguale, qualcuno glielo dirà, non saremo noi, ma... Bene, insomma, glielo diranno prima o poi, anche perché qua non si capisce bene cosa lo tengano a fare a sto punto, cioè se rimane lui o non rimane lui, cioè che dicano qualcosa, perché sto ragazzo alla appena, fine appena mettono in ordine le idee, ci vorrà un po', eh? Secondo me Moratti sta aspettando anche lui di prendere il caffè, no? Con Stramaccioni. Va bene, grazie, va bene, grazie Carlo, un saluto, un abbraccio. Dunque, oggi abbiamo anche esonerato Stramaccioni, pensa un po', chissà domani cosa combineremo. 800 24 00 24, segnatevelo sul blocchetto, perché domani alle 2 vi aspetto qui. Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Beh, se rimane Cavani non posso portare nessuno, che vuol dire? Se no che fanno? Potranno a cazzotti, tra di loro. Bisogna vedere, state calmi, state manzi, si dice a Roma, state manzi, che poi dopo state tranquilli, che il ragù viene fuori, pure buono. Tutti convocati. We'll be right back.